Salva Danaio di Deborah Rosciani. Una buona, buonissima giornata a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati al vostro salvadanaio, nel vostro salvadanaio. Allora, il tema del credito al consumo, lo sapete, è uno dei preferiti della nostra trasmissione, peraltro si sta anche discutendo in Parlamento di una riforma di tutto il settore, siamo in attesa di capire anche cosa cambierà per l'industria dei prestiti e dei finanziamenti, anche per i sottoscrittori, cioè per noi consumatori, che spesso ci capita appunto di sottoscrivere prestiti e finanziamenti per comprare il televisore piuttosto che per l'acquisto di tutta la casa. Non appena ci sarà un quadro definitivo ne parleremo senz'altro. Il nostro focus di oggi però è su una particolare forma di prestito di cui si parla da qualche anno e noi in passato abbiamo più volte affrontato l'argomento, però le banche tradizionali non hanno sviluppato particolarmente questo prodotto, lasciandolo ad alcune società specializzate nella cosiddetta finanza per la terza età. Il prestito di cui vogliamo spiegarvi il funzionamento, lo chiamano peraltro il mutuo al contrario, è il cosiddetto prestito vitalizio. In Italia è distribuito dal 2005 ed è rivolto esclusivamente agli over 65, proprietari di immobili, alla ricerca per necessità o peraltro di liquidità, senza però passare attraverso i canali di finanziamento tradizionali, cioè prestiti personali oppure la cessione del quinto della pensione, fino alla vendita della nuda proprietà della propria casa. E allora oggi noi ritorniamo su questo argomento per capire anche, visto che da almeno un paio d'anni non ne parliamo più, come sta andando, chi lo distribuisce, come funziona, quanto costa e a quale target va bene anche un prestito di questo tipo. Allora io ringrazio e saluto, perché da un po' che non lo sentiamo, il dottor Paolo Buzzonetti, fondatore di Euvis, che è proprio una società specializzata in finanza per la terza età. Dottor Buzzonetti, bentornato a Salvadanaio. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno, e tra l'altro coautore di un libro edito dal Sole 24 Ore, Il prestito vitalizio, funzionamento e caratteristiche del mutuo al contrario per gli over 65. E allora, se ne volete sapere qualcosa di più, 800 24 00 24, oltre a tutte le domande che farò io a Buzzonetti, naturalmente vorrei anche che mi aiutaste a farne, probabilmente qualche aspetto mi sfuggirà, per cui dateci un po' modo di animare la nostra discussione di questa mattina. Potete farlo anche scrivendoci al 349-238-6666. La borsa stamattina era partita molto bene, con un rialzo di oltre mezzo punto percentuale su tutti gli indici. Poi a metà mattinata tutti gli indici europei ci hanno ripensato, hanno virato a ribasso e adesso stanno perdendo lo 0,8%, Parigi e Londra. Francoforte perde un po' meno, -0,50%, Milano -0,78%. Si è appresa poco fa in mattinata la notizia che sono rivolati ai massimi storici i cosiddetti credit default swap sulla Grecia, cioè queste polizze speciali che gli investitori istituzionali sottoscrivono per assicurarsi contro il rischio di bancarotta dello Stato greco. I premi sono volati ulteriormente ai massimi storici e quindi questo stamattina ha ridestato un po' di preoccupazione fra gli investitori appunto sul mercato. Per il resto altre preoccupazioni sono state generate da alcuni dati economici che sono stati diffusi ieri dagli Stati Uniti. C'è stato un nuovo crollo del mercato immobiliare, i tassi di interesse mantenuti a zero dalla Federal Reserve, che ha detto la ripresa appare ancora piuttosto modesta, per cui dobbiamo mantenere questa sollecitazione all'economia attraverso appunto tassi di interesse molto bassi. L'euro sul dollaro stamattina a 1,2290, i migliori titoli di Piazza Affari, Mediolanum sta guadagnando un punto, è l'unico titolo positivo in questo momento sulle principali paniere di Piazza Affari. E poi abbiamo sulla parità Pirelli, abbiamo un calo dello 0,15-0,16% su Snam, Rete Gas e Bulgari, -0,3 circa per Fondiaria, Eni, Enel, Azimut e Telecom. I ribassi più forti sono sul settore bancario: Unipol perde 3 punti, UbiBanca il 2,55, male anche l'editoria, Mediaset -1,80, CIR -2,43, Prismian -2,68, Monte dei Paschi, la Popolare di Milano -1,7. Abbiamo un ribasso di 1,5 mezzo su Buzzi Unicem e sul Banco Popolare su Finmeccanica, per cui nuova giornata negativa appunto per i mercati azionari. Abbiamo avuto un'asta di titoli di Stato stamattina di BTP, assegnati titoli per 1,5 miliardi di euro, il rendimento lordo riconosciuto è stato del 2,72%. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di questa mattina. Oggi parliamo del mutuo al contrario. Thank you. conti correnti, polizze assicurative e prestiti ad hoc. Negli ultimi anni gli strumenti rivolti alla cosiddetta terza età si sono moltiplicati. Complice anche il fatto che in Italia una persona su cinque ha più di 65 anni e che questa fascia di popolazione cresce a un ritmo dell'8% annuo. Ed è proprio a questa fetta di mercato che si rivolge il prestito vitalizio, conosciuto anche come prestito senza rate perché è caratterizzato dal fatto di non prevedere nessuna rata di rimborso per tutta la vita di chi lo sottoscrive. Si tratta infatti di una sorta di finanziamento a lungo termine assistito da ipoteca sull'immobile di residenza, ideato in modo tale da non prevedere rimborsi di alcun tipo, nemmeno per gli interessi, fino alla morte dell'anziano. Spese e interessi vengono infatti capitalizzati e sono dovuti solo a scadenza. Il rimborso, a meno di rimborso volontario anticipato da parte dell'anziano, è a carico degli eredi, può essere effettuato anche utilizzando i proventi derivanti dall'eventuale vendita dell'abitazione. 800 24 00 24, ovviamente, sul funzionamento di questo prodotto. La nostra scheda è stata necessariamente molto sintetica, ma adesso analizzeremo tutti i dettagli dei punti affrontati. Dottor Buzzonetti, sono almeno un paio d'anni che non ci sentiamo. Io mi ricordo che quando avevamo presentato l'avvento sul mercato del credito al consumo di questo prodotto, grazie ad una legge, la legge 248 del 2005, c'era stata molta curiosità, perché in quel frangente evidentemente si era colto un po' un problema di proprio mancanza magari di risorse finanziarie per una grossa fetta di popolazione che molto spesso deve affrontare anche in frangenti appunto anagrafici delicatissimi spese improvvise per la sanità, purtroppo per la salute, anche se poi non è detto che la liquidità raccolta attraverso magari un prestito come questo, adesso ne spiegheremo bene le caratteristiche, fosse destinata solo ad esigenze stringenti, ma c'è anche addirittura chi, mi ricordo che lo spiegavamo, vuole banalmente godersi la vita e visto che ha la casa di proprietà perché non utilizzarla. E allora mi chiedo quale necessità insomma è stata data risposta in questi anni e come è andata anche da quando questo prodotto ha avuto il suo avvento sul mercato, perché io dicevo anche prima, non è che poi le banche lo abbiano molto cavalcato questo ambito, questo settore. Dottor Buzzonetti. Buongiorno a tutti, tanto per cominciare, per rispondere alle sue domande in realtà sono più di una. In questi anni il prodotto si è lentamente diffuso, è vero, il grosso delle banche non lo ha ancora messo in distribuzione, però ci sono una prima serie di banche che stanno dimostrando interesse per questo prodotto. La Banca Popolare di Milano, per esempio, ha in distribuzione il prodotto, il Monte dei Paschi di Siena ha in distribuzione il prodotto, le reti agenziali di Barclays, per esempio, assieme ai mutui tradizionali, distribuiscono il prestito vitalizio. Quindi comincia a esserci una presenza del prodotto sul mercato italiano, ancorché non tutte le banche lo abbiano ancora adottato, diciamo. In questi cinque anni è cresciuto l'interesse per i prestiti vitalizi da parte del mondo degli anziani italiani. I numeri non sono ancora enormi, però complessivamente sono stati erogati circa 150 milioni di euro di prestiti vitalizi fino ad oggi, quindi non è più certamente un prodotto di super nicchia, anche se non ha i volumi che potrebbero avere i prestiti tradizionali oppure i mutui per la che poi tra l'altro anche associare il termine nicchia ad un comparto come questo è una nicchia potenzialmente enorme, per la verità, quindi qualcosa che è di nicchia è qualcosa che rimane davvero circoscritto perché magari è una platea proprio per tipologia e di caratteristiche abbastanza particolari. Qua invece la nicchia sarebbe davvero potenziale. Il tema è anche capire un po' quali sono state le resistenze verso un prodotto di questo tipo. E io peraltro, perché le sollecito subito questo, dottor Buzzonetti, non per entrare nella polemica, perché a noi interessa spiegare concretamente come funziona questo prodotto per coloro che ne fossero interessati e che consapevolmente volessero appunto magari sottoscrivere un finanziamento di questo tipo. C'è però già chi ci scrive, e io mi riferisco a Piero da Modena, ma mi ricordo che dello stesso tenore erano i messaggi anche un paio d'anni fa quando avevo dedicato un paio di puntate di Salvadanaia a questo argomento. Portano via pure le case ai moribondi. Allora, è chiaro che se una persona non ha facoltà di intendere e volere, difficilmente va in banca a sottoscrivere un finanziamento di questo tipo. Io auspico la massima serietà anche degli sportelli bancari. Ci hanno insegnato a volte di non essere magari molto accorti nella distribuzione di prodotti. Però, dottor Buzzonetti, se si va a fare un finanziamento di questo tipo si deve essere nel pieno possesso delle facoltà mentali, immagino. Vorrei chiarire subito sgombrare il campo da equivoci di questo tipo. Sì, assolutamente, ma è assolutamente ovvio che il prodotto viene venduto da noi altri, ma soprattutto viene comprato dai clienti che ci si avvicinano con molta coscienziosità, lo dimostra la prudenza con cui i volumi stanno crescendo, perché è ovvio che andando a toccare la casa di famiglia tutti sono molto attenti alle scelte che fanno, e noi altri, quando vendiamo il prodotto, noi e gli altri operatori del settore altrettanto. Rispondo al commento che sì, è stato fatto dal suo ascoltatore, riportando un convegno che è freschissimo perché è del 21 giugno, quindi tre giorni fa, che è stato fatto a Roma, Sala delle Colonne, Camera dei Deputati. Non lo abbiamo fatto noi non c'eravamo, è stato organizzato sostanzialmente proprio sul prestito vitalizio ipotecario per patrocinare l'utilizzo del prodotto su base cooperativa per aiutare gli anziani in difficoltà, e con un grosso interesse da parte delle associazioni dei pensionati e in particolare della WIL Pensionati, perché il prodotto, come tutti i prodotti finanziari, ha un utilizzo nobile se utilizzato per aiutare, certo, delle persone che ne hanno bisogno, oppure può essere venduto male e quindi a danno di chi lo sottoscrive. È certamente vero. E certo, no, poi non ci dimentichiamo che molto spesso può anche capitare che le persone che lo vogliono sottoscrivere, che si interessano, io ho visto anche delle campagne pubblicitarie di alcuni prodotti di questo tipo, vadano in banca anche con i figli, perché magari c'è un momento per la famiglia, c'è un momento in cui bisogna aiutare un figlio che si sta sposando, che non riesce a comprare casa, abbiamo visto quanto costano gli immobili, magari visto che un accantonamento c'è che è costituito proprio dal patrimonio immobiliare, magari non c'è, come dire, un risparmio di altro tipo, la famiglia preferisce aiutare un proprio familiare attraverso questo veicolo, per cui io poi continuerò a leggere ovviamente i messaggi di polemica, ma mi interessa anche capire poi quanto costano questi prodotti, come si sottoscrivono, come si restituiscono, che tipo di garanzie sono necessarie anche per poter erogare, per poterselo fare erogare da parte della banca. Oggi a Salvadanaio parliamo del prestito vitalizio, è stato definito anche il mutuo al contrario, e almeno così l'ha definito anche l'autore del libro Il prestito vitalizio, funzionamento e caratteristiche del mutuo al contrario per over 65, che è Paolo Buzzonetti, fondatore di Euvis, società specializzata in finanza per la terza età, questa mattina con noi a Salvadanaio per raccontarci come funziona un prodotto di questo tipo, che sta suscitando anche qualche perplessità fra i nostri ascoltatori. Ne abbiamo già parlato all'inizio del nostro programma, ma proprio per così far comprendere pienamente il funzionamento e il meccanismo di un prodotto di questo tipo, che si rivolge ad una fascia sociale molto delicata naturalmente, l'industria ci è andata molto cauta, le banche l'hanno cominciato ad erogare con grande prudenza, tant'è vero che da quando una legge del 2005 ha dato l'opportunità di portare sul mercato un prodotto di questo tipo, ci spiegava prima Buzzonetti, c'è un erogato di circa 150 milioni di euro, per cui questa appunto è dimostrazione di come si stia andando con grande cautela, a prescindere appunto dalle vostre perplessità. E poi ecco, se è una cosa che non vi convince, magari andate in banca, fatevi spiegare bene, ma se non vi convince non c'è l'obbligo di sottoscrivere un bel niente. Poi però magari c'è qualcuno che ci crede, che si lascia convincere, che ritiene che gli oneri e i costi anche di un prodotto di questo tipo siano interessanti, per cui vogliono cogliere questa opportunità. Dottor Buzzonetti, facciamo allora un esempio subito pratico per far capire come funziona. Io ho 70 anni, facciamo un'ipotesi di questo tipo, ho una casa a Milano, ha un valore di 300 milioni di euro, di 300 mila euro, e voglio andare in banca perché me ne servono 100 mila, perché magari voglio dare questa somma a mio figlio perché si sta sposando e voglio permettere anche a lui di comprare la sua prima casa. Che tipo di trattativa devo intavolare con la banca? Ma dal punto di vista pratico è relativamente semplice, perché c'è una domanda di finanziamento normalmente molto esaustiva, che quindi permette a chi sottoscrive la domanda di finanziamento già di comprendere tutte le caratteristiche del prodotto, i funzionamenti, i rischi e i pregi dell'operazione. Normalmente viene richiesto di informare i familiari, gli eredi, potenziali eredi, esatto, più che altro. Di condividere in famiglia la decisione di sottoscrivere un prestito vitalizio. Poi c'è un'istruttoria molto analoga a quella di un mutuo tradizionale, e poi si va dal notaio e, come per un mutuo tradizionale, si firma per atto pubblico iscrivendo l'ipoteca sull'immobile e si ottiene il finanziamento che ha questa peculiarità: non viene rimborsato a rate, perché il rimborso avviene quando l'intestatario del finanziamento, il sottoscrittore, passa a miglior vita, per cui lì poi la patata passa appunto agli eredi, a quella famiglia con la quale la decisione è stata inizialmente condivisa. In che maniera, dottor Buzzonetti? Ma la decisione di condividere in famiglia è la decisione del mutuatario, dell'anziano. Sì, certo. No, io in realtà devo onestamente ammettere che nella stragrandissima maggioranza dei casi noi abbiamo la conferma pratica che la decisione è stata condivisa in famiglia, perché i documenti dell'istruttoria vengono inoltrati per tramite dei figli. In stipula si presenta molto spesso l'anziano insieme ai figli, per cui noi tocchiamo con mano il fatto che veramente la famiglia è sempre informata dell'operazione che l'anziano sta sottoscrivendo. La restituzione però alla banca come funziona, visto che non ci sono le rate? Da un punto di vista pratico, questo prestito, come lei giustamente ha definito, mutuo al contrario, è in pratica un anticipo sull'eredità. È un po' come se l'eredità avesse un valore tangibile, mentre invece l'eredità non hanno valori tangibili. Uno va in banca e sulla base dell'eredità viene anticipato un pezzo del valore di questa eredità. Infatti i soldi che vengono erogati con i prestiti vitalizi nel 50% dei casi poi servono ad aiutare i figli dell'anziano, non l'anziano in prima persona. Senta, a proposito, un attimo prima di lasciarla concludere, perché stavamo toccando il tema degli eredi, mi chiedo un ascoltatore, visto che abbiamo parlato del coinvolgimento familiare, ma per farlo il mutuo, a prescindere dal fatto che la decisione viene condivisa, è una decisione che porta anche ad un consenso degli altri familiari? È necessario, obbligatorio, mi chiede un ascoltatore, il consenso dei potenziali eredi? Che poi no, dovranno sbrigare la pratica della vendita. Dal punto di vista formale la risposta è no, perché anche da un punto di vista legislativo ci sarebbe un problema, perché gli eredi sono una cosa che non esiste finché non siamo morti, perché gli eredi sorgono come diritto solo nel momento in cui si è morti. Prima gli eredi sono una cosa aleatoria, quindi quello che noi facciamo è che coinvolgiamo i familiari. Nelle nostre procedure di vendita è previsto che se i familiari esprimono dei dubbi, tipicamente noi ne parliamo con l'anziano, e non sono rare le operazioni che poi... Che rifiutate anche, dottor Buzzonetti. Sì, d'accordo con l'anziano poi alla fine dei conti, noi diamo consulenza sostanzialmente, e molto spesso se i figli non sono d'accordo l'operazione viene discussa con l'anziano e non viene realizzata. Quindi dicevo prima, facevo l'esempio di questi 100.000 euro appunto che mi vengono erogati, avendo un immobile in Milano dal valore di circa 300.000, passo a miglior vita, naturalmente questo prestito deve essere restituito alla banca attraverso la vendita dell'immobile, ma non è detto, mi pare di capire, perché eredi avessero il denaro potrebbero restituire. Sì, assolutamente, è facoltà degli eredi decidere che cosa fare. Noi abbiamo casistiche le più disparate, ma normalmente o l'immobile viene riscattato, quindi gli eredi rimborsano uno o più figli, rimborsano il finanziamento e quindi liberano l'immobile dall'ipoteca. Talvolta ci succede sotto forma di rimborso anticipato, cioè quando l'anziano incomincia ad avere un'età per cui non è più autosufficiente e non può più vivere da solo, si trasferisce magari a casa di un figlio e quindi la casa viene messa in vendita, e con la vendita dell'immobile viene anche rimborsato il prestito, quindi l'anziano è ancora vivo. Oppure dopo che l'anziano non c'è più, i figli ereditano la casa, la mettono in vendita, loro la mettono in vendita con il ricavato, rimborsano i prestiti e tutto quello che avanza resta a loro sostanzialmente. Senta, se mi sta scrivendo Marzio da Firenze, che prima ci ha un po' insultato perché ha parlato di sciacallaggio, questa è un'operazione da sciacalli, e poi però chiede qualche dettaglio questo ascoltatore di Firenze e dice va bene, poi se lei muore e gli eredi non riscattano l'immobile, che cosa succede? Ma ce ne saranno altri? Ma guardi, se gli eredi non rimborsano, come per qualsiasi mutuo che non viene rimborsato, poi la casa è in garanzia. Certo. E la casa serve per rimborsare il prestito. Funziona esattamente come un'ipoteca, mutuo, certo, come l'esercizio di un'ipoteca, ovvio. Se non si pagano le rate, a un certo punto la banca si rivale, verrà venduta all'asta la casa e rimborsato il prestito. Benissimo. Qui c'è un tassello importante. Quando la casa viene venduta all'asta, se avanzano dei quattrini a valle della vendita all'asta, ovviamente spettano i figli ed eredi. Se nel contratto nostro è così, dal ricavato della vendita non riesce a coprire il totale del debito, la banca rimette la differenza, cioè non va a correre dietro agli eredi per il pezzo che manca, glielo regala sostanzialmente. Anche però credo, dottor Buzzonetti, che questa magari sia una circostanza, non so se vi sia già capitata, ma dato anche quanto si è un po' incrementato il mercato immobiliare negli ultimi 10 anni e visto che comunque in genere la cifra chiesta è abbastanza inferiore rispetto al valore dell'immobile, è una cosa, vi è capitato però? Assolutamente ragione, per adesso non c'è ancora capitato perché però, il prodotto è giovane, lei dice, però insomma, le faccio due esempi per far capire che è una circostanza assai plausibile. Una nostra cliente ci ha tutti salutati all'età di 106 anni. È ovvio che se oggi noi facciamo un finanziamento ad un signore che ne ha 75 ed è altrettanto fortunato e arriva a 106 anni, magari il debito in tutto sto tempo è diventato molto grande. Esattamente. Quindi cioè, questo rischio è concretissimo. Perché? Che tassi applicate, dottor Buzzonetti? Com'è possibile che oggi, diventino, a parte oggi, se crolla il mercato immobiliare, chiaramente in relazione a questo, questo il debito... Esempio, questo è l'altro esempio, perché in Giappone il mercato immobiliare è crollato del 50% anni e anni fa ed è rimasto lì, quindi c'è questo rischio concreto che si possano svalutare le case, può succedere. Ora, il tasso che applichiamo oggi è 7,20%, prima annuo. Prima di ovviamente consumare il valore della casa devono passare parecchi anni, ma se i nostri clienti arrivano a vivere 106 anni, beati loro, la possibilità che il debito superi il valore della casa è concreto. E quindi insomma l'idea, e questo qui lo suggerisco a chi magari adesso gli fosse venuto in mente di andare in banca a fare una discussione su questo tipo di prestito, fatevi fare anche delle simulazioni, dottor Buzzonetti. Assolutamente vero. Su quello che potrebbe capitare. E comunque quando noi stipuliamo il contratto di finanziamento, nel contratto di finanziamento è esplosa tutta l'evoluzione del prestito, per cui si vede perfettamente che cosa succede al debito dovuto nel corso degli anni. Allora, cominciamo a sentire i nostri ascoltatori, iniziando dalla capitale. Enrico da Roma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Un saluto a lei e anche ai suoi radioascoltatori. Grazie. Io volevo chiedere cortesemente, visto i valori del mercato immobiliare, se ovviamente questa tipologia di prodotto entri in competizione con la vendita diretta della nuda proprietà, quindi che sia competitivo per persone giovani, sono relativamente giovani, ma non competitivo con persone oltre i 75 anni. Grazie Enrico. Dottor Buzzonetti. Ha ragionissimo, è un'alternativa. Allora, è evidente che quando una persona ultra settantenne si pone di fronte al problema di avere liquidità a fronte della propria casa, deve valutare con attenzione le alternative. Il prestito vitalizio è certamente un'alternativa, la vendita della nuda proprietà un'altra alternativa. Ci sono pregi e difetti. Col prestito vitalizio certamente prende di meno, però è reversibile, per esempio, lui può riscattarlo, per cui se dopo 5-8 anni i suoi eredi, i suoi figli decidono di riscattare l'immobile, lo possono ancora fare perché è un debito e quindi si può restituire. Viceversa, con la nuda proprietà, una volta incassata, venduta. Casa è perduta. Quindi mi faccio capire le valutazioni. Il contraente che ancora in vita decide di restituire anticipatamente il prestito lo può fare? Certo, ci sono dei casi. Delle penali? Ci sono delle penali, sì, perché siccome il finanziamento è a tasso fisso, e le banche che impegnano il denaro per concedere il prestito vitalizio devono coprirsi da rischio fluttuazione tassi, quindi un rimborso anticipato comporta dei costi per la banca che deve coprire le posizioni che ha preso a fronte della raccolta del denaro, che vengono ribaltate sul rimborso anticipato. Però a parte la penale lo può fare, e ci succede, nel senso che spesso e volentieri, se gli anziani lasciano la casa, vanno ad abitare dai figli, per esempio, la vendono e ci rimborsano. Benissimo, intanto tanti ascoltatori si sono svegliati un po' tardi questa mattina sull'argomento, prima con la polemica, adesso invece con il vivo interesse. In molti ci scrivono: sì, ci potete quantificare, per esempio prendendo un prestito da 100.000 euro, quanto si va a restituire? Io immagino, dottor Buzzonetti, poi magari di questo discutiamo dopo i suggerimenti per chi è in viaggio, che dipenda potenzialmente dalla vita media del contraente, se vive 20 anni ci sarà una certa restituzione, se ne vive 40 come quella che citavamo prima, che campata fino a 106 anni, che Dio la benedica, è chiaro che poi qua la restituzione sarà di importo e di ammontare diverso. Però torniamo su questi aspetti tra poco. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi. Ah, ecco, un'altra domanda molto bella. Un ascoltatore chiede: e se sono terreni, quindi anche quale tipologia di immobile è ammessa al finanziamento? Eccoci qua, dottor Buzzonetti. Un ascoltatore dice: ma insomma, il signor Buzzonetti ha detto che è stato fatto questo prestito alla signora di 106 anni, ma com'è possibile, dato che esiste da pochissimo? Secondo lei, lei se l'ha inventato, secondo Alessandro? Abbiamo fatto prestito, la signora aveva 103 anni quando gli abbiamo erogato il finanziamento, e l'abbiamo erogato per tramite di sua figlia, che ne ha 85 e magari è ancora qui, e che era tutrice della signora di 103. Benissimo. Intestato però a sua mamma di 103 anni, poi ci ha lasciato. La signora magari ci sta ascoltando. La salutiamo, per carità del cielo, infatti. Siamo molto contenti anche che ci siano delle persone così vivaci anche dal punto di vista monetario, che si guardano anche intorno, e quindi nessuno viene obbligato a fare alcunché. Io immagino che stamattina non riusciremo ad esaudire le curiosità di molti su questo prestito. Allora, se non volete andare in banca e chiedere, potete prendervi il libro di Paolo Buzzonetti, Il prestito vitalizio, edito dal Sole 24 Ore, lo trovate in libreria, oppure andare sul sito di Euvis, dove ci sono veramente tutti quanti i dettagli su questo tipo di prestito, per cui assolutamente informazioni che potete avere senza alcun tipo di impegno. Andiamo adesso da Antonio da Frosinone. Antonio? Sì, pronto. Eccoci, buongiorno. Buongiorno a voi. Senta, cortesemente, io vorrei sapere, a proposito dei mutui al contrario di cui è stato parlato, credo che ci sia anche, sia emerso un coinvolgimento degli eredi. Sì. Nel caso in cui invece c'è la vendita della nuda proprietà da parte di persone anziane, sì, che peraltro in questo momento di particolare crisi sono un po' vittime di certo, le pensioni non arrivano da nessuna parte, di molte finanziarie, credito eccetera, nel momento in cui appunto nelle vendite della nuda proprietà non vengono coinvolti personalmente gli eredi, oppure non vengono portati a conoscenza gli eredi di queste operazioni, l'atto è comunque valido? Dottor Buzzonetti, se la persona che fa questo atto davanti ad un notaio è capace di intendere di volere palesemente, penso di sì. Oppure, ecco, per la nuda proprietà, tanto per fare anche delle differenze fra i due diversi istituti, è necessario un coinvolgimento diretto? No, assolutamente. La vendita della nuda proprietà è un atto legittimo di un proprietario che cede un bene, e quindi non è oppugnabile nei confronti. Sì, ma anche perché poi quando qua si parla di anziani, dottor Buzzonetti, qua mi aiuti, è come se avessi ho la percezione che passa il messaggio che stiamo parlando di tutte persone incapaci di gestire la propria vita, ma c'è gente che magari fa questo prestito perché ha 65 anni ed è in ottima forma fisica e vuole banalmente spenderseli per andare a girare il mondo, dottor Buzzonetti, perché io credo che vi sia capitato anche questo. Non facciamo passare il messaggio che abbiamo tutti interdetti, che vanno in banca perché chiedono soldi, perché devono, che sono sotto, come dire, con la pistola puntata alla tempia da parte di qualcuno. No, qua stiamo parlando di un problema sociale enorme, di una popolazione che dal punto di vista appunto dell'anzianità, che abbiamo un allungamento della vita enorme, questo pone anche dei seri problemi dal punto di vista pensionistico, di cui abbiamo parlato tante volte. Ma Buzzonetti, non è che si chiede il vostro prestito solo perché si deve andare in ospedale, si devono gestire spese medico, aiutare il figlio, ma qualcuno si vuole proprio godere anche la vita. Sì, devo dire che poi gli italiani sono, per fortuna, un popolo di gente prudente, per cui non sono tantissimi quelli che chiedono dei quattrini per fare il viaggio. Tipicamente ci sono delle ragioni estremamente valide, e quindi la pensione che è molto bassa, piuttosto che delle spese contingenti improvvise, eccetera eccetera. Però è vero che normalmente, se noi diamo un prestito di 100, il prestito medio, giusto per dare l'informazione, è intorno agli 80.000 euro. Normalmente questi 80.000 euro medi che noi diamo di prestito, ci sono 20 o 30.000 che hanno una ragione contingente che spiegano il prestito. Danno un po' di respiro, ecco. Li prendono e li mettono in in banche si creano un cuscinetto di tranquillità che si smontano lentamente e quindi sono vere entrambe le cose, cioè c'è un bisogno che spinge alla sottoscrizione del prestito, poi una volta compresa la natura del prestito, quasi sempre, non sempre, però quasi sempre si prende un po' di più per fare una buona pianificazione finanziaria della propria vita. Esatto. E lei ha ragionissimo, c'è un equivoco quando si parla di anziani, perché pensiamo tutti alla figura dell'anziano sul dondolo con il gattino e la coppa e il pleddino, invece non è così. Tutti i clienti che noi abbiamo è gente vispissima, normalmente sono ancora i capi famiglia della loro famiglia, spessissimo aiutano i figli. Sono un pilastro importantissimo di anche delle seconde generazioni, quindi sono nonni che vanno a 2000 all'ora, quindi è tutta gente che ha esigenze importanti di pianificazione finanziaria, ma che non hanno gli strumenti, perché se uno a 70 anni va in banca oggi non è considerato un potenziale cliente. O fai il prestito, fai la cessione del quinto della pensione, però lì è veramente un finanziamento di tutt'altro tipo, o la vendita della nota proprietà, e adesso c'è anche questa alternativa. Sentiamo, abbiamo Antonio da Ferrara che aspetta da un po'. Antonio, buongiorno. Sì, buongiorno a lei dottoressa e buongiorno al suo interlocutore. La domanda mia è molto semplice, però mi rimane qualche dubbio, nel senso che supponiamo che l'abitazione, l'immobile vale 300.000 euro e la durata, diciamo, di questo prestito bancario dura 10 anni. Ipotetico, certo, perché potrebbe essere anche 20. Ipotizziamo 10 anni. Il costo di questi 100.000 euro prestati, diciamo, al soggetto, quant'è? Perché chi ricevi 100.000 euro presume, dice vabbè, dice io dopo 10 anni valeva 300, ne vale 100. Il tasso di interesse su 100.000 euro vengono applicati in base a quello che succede durante questi 10 anni, oppure c'è la sorpresa finale per l'erede? Bravo Antonio, andiamo un po' a sentire. Allora, non è che poi alla fine l'erede si ritrova, che ne so, qualche costo relativamente a tutta questa pratica che è stata messa in piedi 10 anni prima, dottor Buzzonetti? No, oppure siete molto trasparenti e chiari con gli eredi? Quello no, perché la normativa italiana è stretta e tutela sostanzialmente i mutuatari e in questo caso i loro eredi. Quindi quando l'erede deve restituire, in sostanza, però, qual è la pratica? Rispondo alla domanda implicita. Certamente, come tutti i prestiti, non è gratis. Allora, la differenza con un mutuo tradizionale è che qui il tasso è un po' più caro di un mutuo tradizionale, ma non tantissimo. La differenza fondamentale è che quando paghiamo i mutui, come l'ho fatto io per comprare casa mia, abbiamo le rate tutti i mesi, noi paghiamo la rata ma non ci rendiamo conto veramente di qual è la componente di interesse che c'è dentro. Invece qua si vede subito, perché date gli 80.000 all'inizio, dopo 10 anni bisogna rimborsare e lì si vedono gli interessi, non sono nascosti dentro le rate. Oltre a oltre al rimborso, che naturalmente sarà maggiorato, degli interessi maturati nel frangente, quali altri costi deve sostenere l'erede? Solo due costi, sono 50 euro all'anno di spese di gestione e la copertura assicurativa sulla casa. Se prende fuoco la casa c'è la copertura assicurativa, che però nei rari casi in cui c'è capitato un piccolo incendio va a rimborsare il cliente, nel senso che se si distrugge la casa viene tenuto dalla banca, ma come invece normalmente succede se è bruciato un pezzettino della cucina, poi noi abbiamo dato i soldi al cliente per sistemare la cucina. Dottor Buzzonetti, il fatto della polizza viene esplicitato in tempi ragionevoli, perché noi proprio lunedì abbiamo fatto una puntata di Salvadanaio sulle polizze applicate alla casa. Molto spesso quelle da sottoscrivere per l'acquisto della prima casa vengono comunicate dalla banca al sottoscrittore del mutuo tipo 2 ore prima del rogito, e quindi lì siamo un po' obbligati a fare questa cosa, altrimenti il rogito va in fumo. Sapere. È assolutamente chiaro, è scritto, esplicitato nella domanda di finanziamento, è tutto esplicitato. E noi teniamo monitorate quelle che sono le condizioni che ci vengono applicate dalle società assicurative partner, facciamo dei benchmark e devo dire che siamo estremamente competitivi. Allora, non riesco a dare risposta ad altri ascoltatori. Giovanna da Modena ci chiedeva se era possibile chiederlo appena prima dei 65 anni. Io non credo, dottor Buzzonetti, sì o no al volo, bisogna averli compiuti. No, la risposta è no, la legge è molto stretta, molto anche chiara. Il signore prima parlava di terreni, purtroppo deve essere una casa residenziale e la casa casa dove abitano gli anziani. Benissimo. E poi devono avere più di 65 anni. E siccome nessuno abita sopra un terreno, ma quantomeno c'è un immobile costruito sopra, è chiaro che qua parliamo di immobile. Grazie, dottor Buzzonetti. Io le girerò molte domande di molti ascoltatori che ci hanno scritto e chiamato che non riesco ad accontentare stamattina. Intanto buon lavoro. Grazie mille, a presto. Saluto a tutti. Noi torniamo domani, parleremo di nuovo dei conti di deposito. Da Deborah Rosciani, grazie a Gaia Romani, Marco Lombardo, Paolo Corleoni. Ci sentiamo domani, buona giornata.